Letture di Radio 24. L'onda emotiva scatenata dagli attentati di Parigi ha fatto passare in secondo piano la scomparsa di una donna straordinaria, la regina del circo Moira Orfei. In un editoriale pubblicato sul Manifesto, Marco Giusti la ricorda con queste parole. Bastavano la sua folle acconciatura con i capelli neri tutti tirati in su, il suo neo sul viso tondo e bianchissimo, il folle camper lungo 22 metri, largo 8, con pavimento di granito brasiliano, il suo passato di regina degli elefanti e di regina cattiva del peplum, fra Ursus, Sansone e Maciste, l'adorazione di Federico Fellini e del primo universo gay a fare di Moira Orfei una divinità non solo del circo e dello spettacolo, ma di tutto il panorama italiano del Novecento. Altro che Madonna o Kim Kardashian. Moira, che recita negli schermi fiammeggianti del nostro cinema avventuroso dei primi anni 60, tra i bicipiti e i ciuffoni di Steve Reeves, Gordon Scott, Kirk Morris, Ed Fury, era molto, molto di più. Fellini lo sapeva, anche se non è riuscito mai a portarla davvero in un suo film. A parte ne Il Clown, dove però è se stessa. Il problema è che Moira era sempre e solo Moira Orfei o Moira degli elefanti, regina del circo e di un immaginario luccicante che da decenni non esiste più. Moira si è spenta nella sua casa mobile che nessuna Joan Collins avrebbe mai potuto avere a 84 anni in quel di Brescia, ma solo perché il suo circo stava lì. Era nata come Miranda Orfei a Codroipo, dalle parti di Udine, nel 1931. Ma sia lei che suo cugino, Nando, parlavano e mangiavano rigorosamente emiliano. Anche questo rendeva più felliniano il mondo del circo degli Orfei. Al cinema non aveva fatto solo peplum e non era solo stata una regina cattiva. Aveva recitato anche con Marcello Mastroianni in Casanova 70, di Mario Monicelli, con Totò in ben tre film, soprattutto in Totò e Cleopatra, con Vittorio Gassman, con Vittorio De Sica e con suo figlio Christian, nel folle Vacanze di Natale 90, dove è una mistress che adora frustare proprio Christian, con Franco e Ciccio in Come inguaiamo l'esercito, con Walter Chiari, con Nando Buzzanca in Dracula in Brianza di Lucio Fulci, dove ha il ruolo di Belva Scatenata, una dea del sesso che riceverà un morso sul sedere dal vampiro. Figlia d'arte, ovviamente, il padre Riccardo Orfei era il clown Bigolon e la mamma, Violetta Arata, circense, aveva cominciato come trapezista da piccolissima, ma sapeva fare un po' di tutto. La sua famiglia e la sua vita era tutta nel circo. Del resto, a 18 anni si era sposata a Sanremo con Walter Nones, domatore, e con lui è rimasta per tutta la vita. Nello stesso anno, il 1960, aveva fondato il circo di Moira Orfei e da allora non ha mai cessato di girare l'Italia e il mondo coi suoi spettatori. Non furono solo rose e fiori. Dalle cronache del tempo riportiamo che nel 1972 fu ferita da un elefante che le ruppe quattro costole, poi che il suo circo rimase fermo ben 5 mesi, nel 78 in Iran, a Teheran, per una controversia fiscale. Moira rispose con uno sciopero della fame, poi cercò di uccidersi, poi minacciò di liberare i suoi 20 leoni, le sue 8 tigri e i suoi 10 elefanti per la città. Alla fine ritornarono a casa. Negli anni ebbe una lunga controversia coi Verdi sull'uso stesso degli animali nel circo, ma nel 92 arrivò il suo camper di 22 metri. Il cinema fu quasi una cosa a parte nella sua vita, ma se ne servì per pubblicizzare il suo circo. Esordì a 17 anni, nel 1959, nel film di Duilio Coletti Sotto 10 bandiere, dov'è una naufraga della nave Atlantis. Ricordava che fu il regista a sceglierla, vedendola camminare per strada, ma fu Dino De Laurentiis, il produttore del film, a imporle il nome d'arte di Moira e la sua tipica acconciatura. E questo era l'articolo di Marco Giusti, Moira Orfei, fiammeggiante regina tra i leoni e sullo schermo, dal Manifesto del 17 novembre. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Letture di Radio 24. All'indomani delle stragi di Parigi, il primo ministro François Hollande ha dichiarato che la Francia è in guerra contro il terrorismo e ha chiesto agli altri paesi dell'Unione Europea di attivare l'articolo 42 del trattato, che prevede l'aiuto degli stati membri al partner aggredito. L'Italia per il momento non si sbilancia, ma una generazione abituata a vedere la guerra solo in televisione sarebbe in grado di combattere? Se lo domanda lo scrittore Antonio Scurati in un editoriale pubblicato sulla Stampa. Siamo una generazione disarmata e imbelle. Abbiamo fatto il servizio civile e quelli nati dopo di noi nemmeno quello. La maggior parte di noi non solo non ha mai ucciso né ferito, ma non ha nemmeno mai toccato un'arma in vita sua. La morte è per noi, figli dell'Occidente maturo, una terra straniera. Tutto ciò rende ancora più atroci e vili le stragi perpetrate a Parigi. I fucili mitragliatori hanno aperto il fuoco contro un'umanità nata e cresciuta in un ambiente interamente demilitarizzato, fisicamente e mentalmente. Come aprire il fuoco in una scuola d'infanzia. François Hollande ha proclamato la guerra senza eufemismi, infingimenti, mistificazioni e ha invocato il nostro aiuto in nome di un giuramento fondativo dell'Unione Europea. La questione adesso è cruciale. Verremo meno ai patti giurati? E se non lo faremo, smarriremo le nostre ragioni di uomini pacifici combattendo per esse? Come combatte in guerra un popolo che non ha mai addestrato ad essa i propri figli, preferendo educarli alle arti liberali del tempo di pace? Come combattono gli uomini che amano il vino, le donne, la musica, la danza, la parola franca, la pittura del volto umano, la libertà in ogni sua forma? La nostra storia, nei suoi momenti più alti, ci fornisce una sicura risposta, fin dalle sue origini, fin dall'epitaffio di Pericle per i caduti ateniesi del primo anno di guerra contro Sparta. Noi, che amiamo il bello, il sapere, la libertà, ci distinguiamo dai nostri avversari anche nel predisporci alla guerra, ricordava lo statista ateniese ai suoi concittadini, seppellendo i propri morti. La nostra città è aperta a tutti. Né mai con espulsione di stranieri impediamo ad alcuno di apprendere o di osservare. Convincetevi che la felicità è data dalla libertà e la libertà dal coraggio. Non lasciatevi dunque intimidire dai pericoli della guerra. E queste erano le parole di Antonio Scurati dall'editoriale Noi, generazione disarmata e imbelle, dalla Stampa del 18 novembre. Il giorno prima, sul Corriere della Sera, Angelo Panebianco aveva scritto che la coalizione militare è troppo ampia e troppo diversificati sono gli interessi. È più probabile, scrive Panebianco, che l'Europa in breve tempo sia pronta a dividersi tra due fronti ugualmente insensati. Da un lato, il fronte di chi vuole fare di tutta l'erba un fascio, prendersela con tutti i musulmani. Sarebbe un favore allo Stato islamico, getterebbe fra le sue braccia anche gente che avrebbe fatto altro, e dall'altro il fronte di chi pretende di trattare l'estremismo terrorista come un fatto estraneo all'Islam e comunque isolato. Come la prima, anche questa seconda posizione si risolve in un favore per gli estremisti. Impedisce di mettere a nudo e combattere le affinità culturali ideologiche fra la minoranza jihadista e settori più ampi del mondo musulmano. Se quelle affinità non ci fossero, ad esempio, non ci sarebbero stati i tanti consensi registrati a suo tempo nel mondo islamico per l'azione contro Charlie Hebdo, né certi giornali del mondo arabo avrebbero potuto permettersi in questi giorni di pubblicare vignette satiriche contro la Francia aggredita. Dallo scontro fra due insensatezze non nasce nulla di sensato. L'Europa, se non vuole essere sconfitta, devi imparare ad essere più intelligente di così. Così scriveva Angelo Panebianco nel suo editoriale L'Europa aggredita e l'Occidente disunito, dal Corriere della Sera del 17 novembre. La pronta reazione di Hollande agli attentati parigini ha raccolto consensi ovunque, ma c'è anche chi si è dissociato, come Michel Houellebecq, lo scrittore francese non certo nuovo alle provocazioni, che ha accusato Hollande di essere il principale responsabile della situazione attuale. Chi è stato a decretare i tagli alla polizia, fino a ridurre i poliziotti all'esasperazione, quasi incapaci di svolgere le loro mansioni? Scrive Houellebecq. Chi ci ha inculcato per tanti anni che le frontiere sono un'assurdità antiquata, simbolo di un nazionalismo superato e nauseabondo? Si capisce subito che tali responsabilità sono state largamente condivise. Quali leader politici hanno invischiato la Francia in operazioni assurde e costose, il cui principale risultato è stato quello di far sprofondare nel caos prima l'Iraq, poi la Libia? E quali governanti erano pronti, fino a poco tempo fa, a fare la stessa cosa in Siria? La conclusione inevitabile è purtroppo assai severa. I governi che si sono succeduti negli ultimi 10 anni, o 20 o 30, hanno fallito penosamente, sistematicamente, pesantemente nella loro missione fondamentale, cioè proteggere la popolazione francese affidata alla loro responsabilità. La popolazione, dal canto suo, non ha fallito in nulla. In fondo, non si sa esattamente che cosa pensa la popolazione, visto che i successivi governi si sono guardati bene dall'indire dei referendum. I sondaggi d'opinione, invece, sono sempre autorizzati e, per quello che valgono, rivelano grosso modo le cose seguenti. La popolazione francese ha sempre conservato fiducia e solidarietà nei confronti dell'esercito e delle forze di polizia. Ha accolto con sdegno i predicozzi della sinistra morale sull'accoglienza di rifugiati e migranti e non ha mai accettato senza sospetti le avventure militari estere nelle quali i suoi governanti l'hanno trascinata. Si potrebbero moltiplicare all'infinito gli esempi della spaccatura oggi abissale che si è venuta a creare fra i cittadini e coloro che dovrebbero rappresentarli. Il discredito che oggi colpisce in Francia l'insieme della classe politica è non solo dilagante, ma anche legittimo. E mi sembra che l'unica soluzione che ci resta sarebbe quella di dirigersi lentamente verso l'unica forma di democrazia reale, e con questo intendo dire la democrazia diretta. Questo il commento provocatorio di Michel Houellebecq dall'articolo «Io accuso Hollande e difendo i francesi», pubblicato in Italia sul Corriere della Sera del 19 novembre. Dopo gli attentati di Parigi c'è stato un forte segnale di reazione da parte della comunità islamica, anche se, come era avvenuto in occasione dei precedenti attentati, non tutti i musulmani hanno mostrato di condannare il terrorismo. Hanno suscitato sdegno in tutto il mondo i fischi dei tifosi turchi durante il minuto di silenzio osservato per le vittime degli attentati di Parigi, durante la partita amichevole tra Turchia e Grecia allo stadio di Istanbul. Ma anche da noi c'è stato chi non ha osservato il minuto di silenzio. 6 alunne di un istituto tecnico di Varese, tutte musulmane, figlie di immigrati nordafricani, lunedì mattina si sono alzate dal banco e sono uscite dall'aula durante il minuto di silenzio che nelle scuole d'Italia doveva rendere omaggio ai morti del Bataclan, dello Stade de France, dei bar parigini e di tutti i luoghi spesso affollati da loro coetanei. Un gesto plateale e isolato, del tutto controcorrente. Il fatto è accaduto all'Istituto per Periti Commerciali d'Averio, una realtà di 1.800 ragazzi, con un alto tasso di stranieri, che arrivano da mezza provincia di Varese. Il clamore del gesto è stato tale che è stato oggetto di discussione persino al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, ogni settimana convocato in prefettura, e anche la Digos ha avviato accertamenti. Le ragazze hanno tutte 15 anni. Un sesto ragazzo nordafricano, loro compagno di classe, è rimasto al suo posto, rispettando il silenzio. La polemica è arrivata sui social network, con commenti che hanno subito condannato senza mezzi termini l'atto di ribellione, con parole crude e talvolta irriferibili, arrivando a chiedere l'allontanamento dall'Italia delle ragazze e delle loro famiglie. Ma Nicoletta Pizzato, preside dell'Istituto d'Averio, legge l'episodio non in chiave fondamentalista, ma alla luce delle inquietudini tipiche dell'adolescenza. Volevano capire perché commemorare solo Parigi e non l'aereo russo o Beirut, ha detto la docente all'ANSA. Il gesto è stato una richiesta di aiuto a capire quale sia la discriminante nella valutazione dei morti. La scuola deve educare, formare e raccogliere gli interrogativi posti dagli alunni. Resta l'interrogativo di fondo: come possa essersi acceso nell'animo di 6 giovanissime un imperativo talmente forte da spingerle a un simile gesto di disobbedienza davanti ai compagni con cui condividono ogni giornata. Queste le parole di Claudio Del Frate dall'articolo Le 6 ragazze musulmane che non fanno il minuto di silenzio, dal Corriere della Sera del 19 novembre. A differenza delle 6 ragazze di Varese, molti musulmani hanno preso le distanze dai fondamentalisti islamici che predicano l'odio. Ma anche dissociarsi non è sufficiente, scrive Abdennur Bidar, filosofo e studioso dell'Islam, che già all'indomani degli attacchi alla redazione di Charlie Hebdo aveva scritto una lettera aperta al mondo musulmano. «C'è una trappola nella quale dobbiamo assolutamente evitare di cadere», scrive Bidar. Daesh? L'islamismo radicale? Sì, è urgente, ma questa è soltanto una goccia dell'immenso compito che incombe su di noi oggi. Farla finita con le guerre di religione. Uscire finalmente dal conflitto che da tempo immemore si combatte tra le diverse forme del sacro, ed è indispensabile camminare insieme verso un senso del sacro condivisibile tra tutte le culture e tutte le civiltà. Io chiedo solennemente ai musulmani e alle musulmane europee di non restare in disparte, di non cedere alla tentazione di rinchiudersi in se stessi nella difesa esclusiva dei propri interessi. Che rispondano ai sospetti con l'apertura, che rispondano al rigetto con un contributo, che rispondano al male col bene, come consiglia il Corano, che riconquistino il rispetto e la considerazione di tutti, unendosi intellettualmente e umanamente, ovunque sia possibile, e con un impegno sociale e politico quotidiano, a tutti coloro che rifiutano un mondo egoista, nel quale si vive separati in comunità chiuse e in tribù, e nel quale l'uomo si trasforma in lupo, che si avventa contro gli altri uomini. Torniamo a tessere i rapporti di fraternità tra di noi, con gli altri, con la natura e l'universo. Torniamo a spiritualizzare il mondo e avremo una possibilità di guarirlo dalle sue sofferenze. Questa la lettera aperta ai musulmani: dissociarsi non basta. Chi crede in Allah dimostri di essere un cittadino d'Europa, scritta da Abdennur Bidar e pubblicata in Italia sulla Repubblica del 19 novembre.